Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e allora trasmettiamo, come ricordava anche il nostro GR, dal World Business Forum, prima giornata di lavori. La comunità dei businessmen e dei manager responsabili d'acquisto, ma non solo, si è riunita a Milano. Chiaro è che all'interno e al di là di tutti i convegni e le tavole rotonde il tema principale resta lo scenario macroeconomico, restano gli spettri di una recessione che rischia di essere pesante soprattutto nel 2009 e restano i timori per una crisi finanziaria che non si capisce bene quando potrà considerarsi in via di risoluzione. Questo blocca anche molto gli investimenti e tutti i piani di investimento per quello che riguarda il 2009. Investimento vuol dire anche acquisti, ordini e quant'altro. Tutto ciò in una giornata, come ormai sapete, bellissima sul fronte delle borse. Chiaramente la chiusura di Wall Street di ieri sera, quasi l'11% di rialzo, ha fatto schizzare oggi prima tutte le borse asiatiche e poi quelle europee. Milano oggi è in linea con il resto d'Europa, nel senso che il MIB guadagna il 7,5%, l'S&P MIB l'8,6%. Francoforte, che ieri era stata l'unica borsa positiva grazie all'effetto Volkswagen, proprio per realizzi e vendite su Volkswagen, che perde circa 40% in borsa, dicevo, Francoforte è quella più che cresce di meno, solo lo 0,9%, ma Parigi fa l'8% e un dato analogo lo ritroviamo anche a Londra. Adesso diremo anche i titoli che più salgono. Nel frattempo però il Dow Jones ha aperto un po' incerto, più 0,2% sull'indice generale di Wall Street, mentre Londra in questo momento guadagna ma il 5%. Che cosa sta trascinando verso l'alto Milano? Saipem più 16%, Tenaris più 15%, Eni più 14%, Monte dei Paschi più 12%, e poi Intesa San Paolo più 12,1%. Anche qui immagino, già vedo già le vostre domande al 349-238-6666. Sono ricoperture, è difficile dare una spiegazione razionale, logica, di medio e lungo periodo su un titolo come Intesa, ma anche UbiBanca, Unicredito, che perde un giorno il 10% e il giorno dopo lo riguadagna. Comunque, ben vengano i rialzi. Intesa più 12%, Impregilo più 11,5%, UbiBanca più 10,6%, Unicredit più 10%, il Banco Popolare più 10%, Finmeccanica più 7,4%, come Telecom Italia, il 6,5% lo guadagna Fiat, il 6% Generali, il 5,5% Enel, e anche Seat pagine gialle, anche Alleanza e Buzzi, Unicem. Andiamo avanti e concludiamo con chi guadagna oltre il 4% e si chiamano A2A, L'Espresso, ST Microelectronics, Parmalat, Luxottica, Mediaset e anche la Popolare di Milano e Bulgari guadagnano più del 4%. Di negativo oggi sull'indice non c'è nulla, il titolo che cresce di meno è Geox più 0,5% e poi Snam più un punto percentuale. Il rapporto di cambio in questo momento resta sempre su livelli relativamente bassi rispetto a quanto non ci ha abituato l'euro negli ultimi mesi. Siamo sempre tendenzialmente nel rapporto di cambio euro-dollaro a quota 1,28, oscilla oggi tra 1,27 e 1,28. Dicevamo 349-238-6666 per i vostri sms. Ci occuperemo della crisi intesa come iniziative politiche, ossia oggi, come ricordava il GR, ha parlato il Presidente del Consiglio Berlusconi, mercoledì Consiglio dei Ministri in cui verrà varato il decreto a sostegno delle banche, ma forse anche altri interventi a favore dei consumi. La Confcommercio ha chiesto che vengano defiscalizzate, detassate le tredicesime, una misura su cui non c'è stata un'immediata apertura, è una misura molto molto onerosa, lo dico subito, per lo Stato. Le tredicesime valgono complessivamente 50 miliardi e una detassazione avrebbe un valore di mancato gettito per le casse dello Stato tra gli 8 e i 10 miliardi, per cui stiamo parlando quasi di una manovra, anzi di una manovra correttiva, di una manovra bis, ecco perché c'è molta prudenza. Più efficace e comunque meno costoso per le casse pubbliche italiane sarebbe invece un taglio dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea. Vedremo di quanto sarà quello che ormai tutti definiscono probabile, il taglio della BCE, ormai definito così anche dallo stesso Trichet. Questa sera ci si attende un taglio, lo si dà per scontato praticamente, da parte della Federal Reserve alle 19.15 italiane. Le attese sono di un taglio di 0,5 punto percentuale, c'è anche chi scommette però su 0,75 punto o addirittura 1 punto percentuale. Il prossimo 6 novembre dovrebbe essere invece la volta della Banca Centrale Europea, e quindi consumi, difficoltà nei consumi, sostegno al credito alle imprese, altro tema che tratteremo oggi. I timori sono forti di una stretta, di un giro di vite che già si sta registrando nel rapporto banche imprese, e poi parleremo chiaramente anche della borsa e del settore telecomunicazioni, un settore sotto i riflettori anche in questo World Business Forum. 349-238-6666, di nuovo per gli sms, rapidamente le notizie in breve. E allora partiamo dal petrolio, che oggi, alla luce anche di un leggero rafforzamento dell'euro, quota 1,28 è salito, è a 66 dollari. In realtà sul petrolio ha inciso anche un dato sulle scorte americane, che sono cresciute molto meno delle attese, 500.000 di barili contro 1,5 milioni attesi. Di Saipem si diceva in borsa, benissimo il titolo, il migliore dell'S&P MIB in questo momento. E oggi è uscita anche la trimestrale, che ha visto insomma un utile crescere del 29% a 190 milioni di euro. In 9 mesi l'utile di Saipem è a 690 milioni di euro, e voglio dire, è il terzo trimestre, quindi di là di quello che è il nervosismo, delle volte il panico sulla borsa, poi sarà importante andare a guardare anche le trimestrali, vedere i gruppi che continuano a fare utile e quindi non hanno un prezzo così giustificato in borsa, tant'è che Saipem ha alzato le stime su tutto il 2008, vede il risultato netto aumentare del 30%. Avremo anche un aggiornamento, se ce la facciamo, sull'Alitalia. Alle 14.30 è iniziato infatti il nuovo incontro tra i sindacati e la CAI per decidere i criteri per selezionare le 12.639 persone che saranno assunte nella nuova Alitalia. Sempre sulla crisi del credito, però, è salito a 110 punti la differenza tra il rendimento del nostro BTP e del Bund tedesco, ed è un record lo spread che il nostro paese sta registrando nei confronti della Germania, un record da quando esiste l'euro. Ora, di solito questo vuol dire che si ritiene meno affidabile il debitore Italia rispetto al debitore Germania. In realtà in questo caso tale è la necessità, quella che si chiama in gergo fly to quality, cioè la necessità di investire in prodotti assolutamente garantiti, assolutamente diciamo fuori da ogni rischio, che sembra più pesare questo secondo aspetto che non un peggioramento dell'affidabilità dello Stato Italia quanto a debitore. Una buona notizia oggi non riguarda solo la borsa, riguarda anche tutti coloro i quali hanno un mutuo. L'Euribor è sceso ai minimi da aprile. Sarà importante poi vedere che le banche, sia per i clienti privati, quindi chi ha un mutuo, sia per i clienti imprenditori, trasferiscano questo Euribor a ribasso anche sui mutui, sui prestiti, non se lo tengano in casa magari per pareggiare i conti che vanno male. E comunque l'Euribor, ossia il tasso di riferimento per tutti i prestiti interbancari, è sceso ai minimi da aprile, è al 4,83%, è il 14° ribasso consecutivo. Molti di voi già ci chiedono di Francoforte. Francoforte in questi giorni ha visto il titolo Volkswagen crescere un giorno del 170, il giorno dopo dell'80%, oggi perde il 44%, e tra l'altro il flottante di Volkswagen è ridotto all'osso, ecco perché la borsa di Francoforte cresce meno delle altre. Però l'autorità di vigilanza sui mercati tedesca, la Consob tedesca, che si chiama BaFin, ha aperto un'inchiesta, vuole capire insomma che cosa è successo su questo titolo negli ultimi 2 giorni. Male le vendite invece nel settore auto per General Motors, primi 9 mesi dell'anno meno 5,8%. Adesso passiamo al fronte italiano di questa crisi. Perché? Perché da un lato il presidente della Consob Cardia, in audizione alla Commissione Finanze della Camera, ha detto che la situazione attuale è più grave di quella del 1929. Si meriterebbe il gufo, ma oggi non è giornata di gufi. E ancora, sempre Cardia ha detto che i tempi sono maturi per l'adozione di misure a livello internazionale di vigilanza anche sugli hedge fund. E vorrei ben dire anche perché proprio strumenti non vigilati, società non vigilate a livello internazionale hanno permesso ai colossi bancari di accumulare esposizioni insostenibili, come poi si è visto. E per la Consob la crisi di liquidità delle banche può anche in Italia tradursi in un maggior ricorso alla raccolta di obbligazioni, quindi all'emissione di obbligazioni. Attenzione, ha detto la Consob, perché vi sono rischi concreti di conflitti di interesse all'interno delle banche. E se l'Ungheria oggi ha ottenuto il prestito da 20 miliardi di euro dal Fondo Monetario Internazionale e dell'Unione Europea, cioè 12 miliardi e mezzo li mette il Fondo e 6 miliardi e mezzo li mette, scusatemi, la Banca Mondiale, l'Unione Europea, e un altro miliardo lo mette la Banca Mondiale, il fiorino ha ripreso fiato. A Bruxelles oggi, durante la riunione straordinaria della Commissione Europea sulla crisi della finanza, è arrivato un nuovo monito e allarme dal commissario europeo Joaquín Almunia. Ha detto: ci troviamo di fronte a un serio rallentamento dell'economia che colpisce le imprese, i cittadini e i posti di lavoro. We should ensure that the slowdown... Vogliamo assicurare che la crisi sarà il più breve possibile e vogliamo sostenere coloro che stanno pagando i danni maggiori. Dato che la pressione inflazionistica sta migliorando, le politiche fiscali e monetarie possono contribuire a sostenere la domanda. Il nuovo patto di stabilità è chiamato al risparmio nei tempi buoni e ad essere più flessibile in tempi difficili come quelli attuali. Grazie alle applicazioni del patto, il disavanzo dell'Europa e dell'area euro è stato ben al di sotto di un punto di PIL nel 2007. Ora gli Stati membri possono utilizzare quello spazio di manovra che hanno creato. Va bene, con il monito di Almunia si chiude la parte delle notizie in breve. Dicevamo che oggi il tema della giornata riguarda soprattutto le iniziative italiane e l'allarme lanciato dalla Confcommercio, la richiesta di una detassazione della tredicesima, i consumi meno 1,3% l'attesa per quest'anno all'ordo dell'inflazione, quindi stiamo parlando di un meno 4, meno 5 per cento in termini netti. Allora parliamo della crisi del credito, ma nel senso delle misure per salvare l'economia italiana a sostegno quindi di consumatori, cittadini qualunque, ma anche delle imprese. Vediamo allora che cosa è accaduto oggi. Il Presidente del Consiglio Berlusconi ha detto: se le banche lo chiederanno noi faremo un intervento. Sulla richiesta che è arrivata sulla detassazione della tredicesima è stato più prudente il Presidente del Consiglio. Allora sentiamo che cosa ha chiesto innanzitutto, dopo che la richiesta, devo dire, è arrivata dal leader del PD Walter Veltroni, è arrivata oggi anche dalla Confcommercio. Ebbene, c'era il Consiglio Generale dell'Associazione dei Commercianti, il Presidente della Confcommercio Sangalli ha rivolto questo appello. Certamente oggi bisogna rilanciare i consumi perché la domanda interna che non gira sono il vero tallone d'Achille della nostra economia. Noi abbiamo fatto una serie di richieste che posso sintetizzarla così, e certamente è importante continuare a potenziare la detassazione degli straordinari, dei premi, degli incentivi, degli incrementi di produttività. Abbiamo chiesto di prendere in seria considerazione la detassazione della tredicesima. Abbiamo anche chiesto proprio per l'impatto che la crisi finanziaria sull'economia reale e che colpisce in modo particolare i settori che noi rappresentiamo, un rapporto tra sistema bancario e piccole e medie imprese. Abbiamo anche chiesto di attivare la garanzia sovrana dello Stato per i consorzi fidi e soprattutto di valutare l'impatto di questa crisi sul nostro mondo per arrivare ad una rivisitazione dei parametri degli studi di settore che possano rispondere ai veri principi dell'equità, della selettività e della territorialità. Mercio Sangalli al microfono, il nostro Vincenzo Miglietta, e allora sentiamo anche quella che è stata la risposta del Presidente del Consiglio, sempre al microfono del nostro Vincenzo Miglietta e sempre a margine del Consiglio Generale della Confcommercio. Stiamo lavorando, venerdì avremo questo incontro con il mondo del lavoro e quindi stiamo lavorando, abbiamo in mente diverse cose che pensiamo possano essere messe in pratica. Ci sono diverse ipotesi che vedremo, i fondi sono naturalmente scarsi, però voglio dire, io sono come sempre ottimista, cioè oggi le borse, come vedete, no? Che sono in preda alla speculazione, e questo mi sembra molto chiaro, sono ripartite. Quello che è importante è che non bisogna fermare il flusso dei finanziamenti delle banche al mondo delle imprese e alle famiglie. E noi su questo interverremo. Il nostro sistema delle banche è molto solido, il governo lo sa bene. Tuttavia, se le banche lo richiederanno, il governo è a disposizione per intervenire senza che questo intervento, mi stavo scrivendo proprio un appunto al riguardo, senza che questo intervento significa in alcun modo qualcosa di imposto o di imperativo e che non significhi in alcun modo nessuna conseguenza per i dirigenti, gli amministratori delle banche. Ecco, quindi mi ho chiesto proprio così, no? Quindi l'intervento sarà richiesto, se richiesto dalle stesse banche, il governo è pronto ad assisterle a termini di mercato e assolutamente, ho sentito che ci sono in giro queste notizie, senza condizioni punitive né per il management né per gli azionisti, insomma, ecco. Noi siamo un governo liberale e ce lo ricordiamo sempre, soprattutto il Presidente del Consiglio se lo ricorda sempre. E poi il Presidente del Consiglio ha ricordato come vada bene anche una misura un po' più flessibile su quelli che sono i criteri di Maastricht, ossia il tetto del 3% sul deficit e quant'altro, però ha detto attenzione, noi come Italia per essere presentabili dobbiamo avere il nostro debito sotto il 100%. E allora, partiamo dalla crisi del credito sui consumi, cioè sull'economia reale, affrontando il tema dei consumi, poi arriveremo nella seconda ora del programma anche al tema del credito alle piccole e medie imprese. Perché? Perché la misura chiesta dal PD, ma soprattutto oggi chiesta dai commercianti, è una misura che vale, insomma, le tredicesime in questo paese valgono circa 50 miliardi di euro. Ovviamente detassare le tredicesime, la stima l'ha fatta la Confcommercio, ma insomma dovrebbe oscillare tra gli 8 e i 10 miliardi. Avete sentito il Presidente del Consiglio dire, beh, insomma, non è che i fondi siano tantissime a disposizione. Ora 8-10 miliardi di minor introito fiscale per lo Stato vanno coperti e questo, diciamo, può quasi voler dire una manovra correttiva, una manovra bis. Dalle stime che abbiamo a disposizione questo vorrebbe dire comunque, se si detassasse tutta la tredicesima, una media di circa 300 euro in più per quella tredicesima su ogni singolo lavoratore. È chiaro che questa è una media, come tale non ci sarà chi ne avrà un vantaggio di 600-700 euro e chi di qualche e di un centinaio di euro. Comunque, professor Mario Bavassori, che insegna gestione aziendale al Politecnico di Milano e soprattutto con la ODM Consulting si occupa trimestralmente dei rapporti sui consumi, buonasera. Buonasera a voi. Le cifre che ho dato sulla tredicesima le tornano? Sono un po' alte, mi sembra. Un po' alte? Sì, un po' alte, secondo me non è da 8-10 miliardi. Per i lavoratori dipendenti... Cioè chi ha dato la Confcommercio, non l'abbiamo dato. Sì, infatti, per i lavoratori dipendenti si può stimare da un minimo di 3 miliardi, circa 3 miliardi e mezzo, a un massimo di 6 miliardi. Perché questo dipende se la tassazione è totale o è parziale. Se facciamo il 10% secco potrebbe essere intorno appunto ai 3,5 miliardi. Rimangono fuori i pensionati. Rimangono fuori i pensionati, esatto, che sono la voce più delicata. Non sono però altri 3 miliardi, sono un po' meno. No. E i pensionati, tra l'altro, che hanno un problema di adeguamento della pensione all'inflazione reale, perché lì va l'inflazione programmata. L'inflazione programmata sappiamo che è sempre più bassa dell'inflazione reale, e sugli adeguamenti poi non riescono a recuperare tutto il potere d'acquisto. Esatto. Sulla io pensione. Io ho una formula molto semplice per calcolare questa cosa. Ogni 100 euro, diciamo, in più dati attraverso la detassazione della tredicesima, il costo per i lavoratori dipendenti è circa 1,7 miliardi. Ogni 100 euro. Quindi per arrivare a 300 euro e il trasferimento che stimavamo ci vorrebbero 4,5 miliardi. 4,5 miliardi, esatto. Che comunque... sono un po' i soldi che erano stati accantonati per gli straordinari su un anno. Sì, adesso non sono stati spesi, almeno per buona parte. È vero, va detto che il governo in questo momento avrà meno introito da IVA sulla benzina, c'è niente da fare, il petrolio va a 66, però insomma, anche se fossero 4,5 miliardi, professor Vassori, si tratterebbe dell'equivalente di una manovra correttiva, cioè o entrano questi soldi in un altro fronte, fiscalmente parlando, ma dubito che dall'IVA arrivi molto con un'economia ferma se non in recessione, o se no occorre coprirli questi 5 miliardi. Le chiedo, secondo lei, visto che i consumi e i consumatori li studia da anni, questa misura poi sarebbe efficace? Perché lo sforzo anche del governo, ammesso e non concesso che il ministro Tremonti lo ritenga praticabile, poi vuole far ripartire i consumi. Se poi questi soldi non si trasferiscono sui consumi, torniamo al discorso fatto prima tra Euribor e tasse applicate ai clienti sulle banche. Certo, ma secondo me non è un intervento strutturale, chiaramente è un intervento straordinario, quindi proprio perché è straordinario può avere un'efficacia straordinaria ma temporanea. Dobbiamo andare a vedere piuttosto come stanno andando i redditi e gli stipendi delle persone. Nell'ultima rilevazione che abbiamo appena concluso, gli incrementi anno su anno, quindi 2008 gennaio-agosto su gennaio-agosto 2007, l'incremento è stato di 4,9 punti per i dirigenti, che sono arrivati a circa 106.000 euro medi. È stato di 4,3 punti per i quadri, 52.000 euro medi, ed è stato di 3 punti invece per gli impiegati, che sono arrivati a 27.000 euro, e di 4,3 punti per gli operai, che sono a 22.600 euro medi. E questa però, Vassori, è la conferma di una tendenza, ossia quelli che incrementano meno il loro salario dalle vostre rilevazioni e qui stanno anche leggermente sotto l'inflazione Istat, sono gli impiegati, non sono gli operai, cioè né la parte bassa, diciamo, contrattualmente parlando, né la parte più alta, quella di mezzo. Il ventre mollo del nostro sistema. No, se poi lo confrontiamo però con l'indice dei beni ad alta frequenza, tutti sono sotto. Sì. I beni ad alta frequenza oggi sono a 5,4 punti di inflazione, diciamo, di incremento, e quindi sia il 4,9 che il 3% sono abbondantemente sotto. Sì, diciamo che per un dirigente che già guadagna in media 100.000 euro, il 4,9 si avvicina un po' all'indice che lei ricordava, quello che l'Istat dopo anni di richieste ha finalmente, con uno sforzo enorme, creato, cioè l'indice dell'inflazione sui prodotti a maggiore consumo, perché a me interessa poco che non cresca lo stereo, l'hi-fi, piuttosto che il computer, visto che ne compro uno, si spera, ogni qualche anno. È più importante sapere come vanno i generi alimentari, i ristoranti, i bar, i servizi e quant'altro. Questo indice ha un'inflazione più alta di quella della media, ossia oltre il 5%. Però insomma il dirigente ci si avvicina a 4,9, l'impiegato resta quasi 2 punti sotto. 2 punti abbondanti, esatto. Misure alternative alla defiscalizzazione o detassazione delle tredicesime, perché alcuni dicono vabbè, ma varrebbe solo per i lavoratori dipendenti, non per le parte IVA. È vero anche, lo sappiamo, lo ha detto più volte la Banca d'Italia, le parti IVA hanno, i lavoratori autonomi hanno avuto modo in questi anni di adeguare i listini tariffari in molti casi, chi è rimasto fermo lavoro dipendente. Le chiedo, però la risposta la vorrei dopo le informazioni meteo e pubblicitarie, se in realtà una misura ben più efficace, anzi gliela chiedo subito perché così poi facciamo un altro blocco, se una misura più efficace non possa essere la riduzione dei tassi di interesse, cioè se la BCE abbassa i tassi di un punto, due punti, come chiede Confindustria, costano meno i mutui, il denaro costa di meno e si liberano più risorse. Qui ci sono diversi problemi, uno è quello degli autonomi, è vero che hanno adeguato le tariffe, però è anche vero che oggi la pressione dell'offerta è molto più alta della domanda e sono 6 milioni gli autonomi, non sono pochi. Il secondo problema è un intervento di tipo strutturale, non solo un intervento straordinario, probabilmente è utile fare un intervento straordinario, ma andrebbe accompagnato con un intervento strutturale, come quello che lei suggerisce, ma io dico anche un intervento invece sulla tassazione del lavoro dipendente, che sia duraturo nel tempo. Cioè abbassare le tasse per chi sostanzialmente il lavoro dipendente guadagna sotto una certa cifra, anche perché lì non avremo un problema dell'evasione, tanto lì nessuno evade perché non può. Quindi non avresti il problema di avvantaggiare magari persone che dichiarano 20.000 euro l'anno, ma perché li evadono. Quindi è un intervento certo questo, certo. Che dà sicuramente un vantaggio. Allora, vedo anche molte domande sul tema, dopo il metodo della pubblicità alcune risposte, poi parliamo di borsa, vista l'ottima giornata oggi, tutti gli indici hanno chiuso la maggior parte con crescite superiori al 7%, grazie a Mario Vavassori, docente di gestione aziendale al Politecnico di Milano, nonché presidente di ODM Consulting. Grazie a voi. ...17.39 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vedo molti messaggi sul tema della richiesta arrivata oggi anche dalla Confcommercio. Sì, l'abbiamo detto che l'aveva chiesto anche il PD, inutile ricordarlo ogni volta, ma insomma l'ha chiesto anche Walter Veltroni, ci mancherebbe. Cauto il Presidente del Consiglio, ripeto, i soldi, il Professor Vassori ha fatto un calcolo diverso, ha detto se ci fosse un'aliquota fissa al 10%, una tassazione fissa al 10%, a quel punto costerebbe sui 3 miliardi o poco meno di 3 miliardi per ogni 100 euro in meno, insomma, il valore è circa 1 miliardo, ecco perché si è arrivato a una cifra intorno ai 5. Alcuni di voi dicono va bene, ma questo non risolve il problema delle pensioni, non risolverebbe il problema di varie categorie professionali colpite anch'esse dalla crisi, come gli agenti di commercio, gli artigiani. Altri obiettano che non aiuterebbe la nostra impresa perché questi soldi liberati, ogni euro liberato servirebbe a consumare sì, ma anche beni da importazione. E quest'ultima obiezione è vera, ma a parte il fatto che l'autarchia è impraticabile nel 2008, il problema della domanda interna in parte comunque questi consumi sarebbero consumi di beni italiani, ma soprattutto permetterebbe anche migliorare le condizioni economiche di chi questi beni li vende, mi riferisco ai commercianti e agli esercenti. Certo che l'altra leva è la detassazione e defiscalizzazione di chi lavora, straordinari come ha fatto il governo e altre formule, aumentando anche legandolo alla produttività e scaricandolo da quello che è il costo delle imprese su questo. Comunque passiamo adesso ai mercati, poi arriveremo al credito alle imprese, perché oggi la giornata è stata più che buona su tutte le borse, più che buona è quasi un minimizzare, nel senso che Milano alla fine ha chiuso con un rialzo del 9,87%, quindi molto meglio del resto, cioè ha chiuso sui massimi. Mibtel più 8,50%, Parigi alla fine, la borsa più debole è stata oggi Francoforte, che ha perso lo 0,3%, l'America guadagna lo 0,9% in questo momento, Londra in rialzo del 5%, anzi del 6,5% nel finale, e per quello che riguarda Parigi il 9,23%. Ci sono titoli che hanno guadagnato più del 10% sono Intesa San Paolo più 17,5%, Eni più 17%, Saipem più 16,7%, Tenaris più 16,4%, Impregilo più 12,5%, Ubibanca più 11,3%, Unicredit più 11,2%, Banco Popolare più 10,3% e anche Monte dei Paschi più 8,3%, Finmeccanica più 7,3%, Enel più 7,2%, Fiat il 6,5%, il rialzo del 6,5%, come per Alleanza Assicurazioni del 6% lo è per Telecom Italia. Livia Zancaner, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Ora, trovare spiegazioni, trovare una ragione a una storia che non ne ha è difficile, per cui spiegare perché ieri Unicredito e Intesa perdevano oltre il 10% e oggi lo guadagnano così non ha un che di razionale, se non ricoperture, rimbalzi e forse qualche attesa sui tassi di interesse. Sì, allora vabbè, il deciso rimbalzo delle borse europee di oggi, a parte Francoforte, è dovuta anche all'attesa delle decisioni sulla politica monetaria della Fed di questa sera. Appunto, come dicevi tu, per quanto riguarda le banche, alla fine si tratta semplicemente del fatto che ieri erano state le società maggiormente penalizzate, quindi Intesa è stata la migliore dell'S&P MIB con un rialzo di oltre il 17%. C'è anche da dire che ieri il Comitato per la Stabilità Finanziaria del Governo ha affermato che le banche italiane, ha ribadito che le banche italiane sono solide, anche se non mancano preoccupazioni per la forte flessione delle quotazioni, e il Tesoro ha detto però di non voler rinunciare a un piano di capitalizzazione nei confronti degli istituti di credito del nostro paese. Allora, questo per quello che riguarda, diciamo, la situazione generale. Su Saipem invece però c'è anche una notizia di mercato, cioè è uscita la trimestrale molto buona, addirittura il gruppo controllato da Leni prevede, ha aumentato l'obiettivo sul 2008. Sì, assolutamente. Saipem come Tenaris ed Eni hanno beneficiato del rally del petrolio, che oggi è accelerato verso $68 al barile, ma Saipem appunto ha beneficiato della revisione al rialzo delle stime 2008. La società ha infatti comunicato di aver chiuso il terzo trimestre dell'anno con un aumento dell'utile del 29% e ha detto che i risultati fin qui consolidati e il buon andamento delle commesse consentono di migliorare le stime per l'intero esercizio. Quindi il risultato netto destagionalizzato per il 2008 è atteso in aumento del 30%, mentre la società ha confermato ricavi netti a 10 miliardi e investimenti a 1,9 miliardi. E lo dicevamo in apertura, adesso sarà importante andare a guardare, quando la calma e un po' più di ragione tornerà, guardare le società che al di là della crisi stanno chiudendo il 2008 in maniera più che buona, perché non è che tutte le società avessero mutui prodotti tossici americani, strumenti rischiosi, carta su carta, carta straccia e quant'altro. Molte hanno continuato a fare il loro lavoro di sempre, produrre, fare contratti, esportare, costruire impianti, nel caso di Saipem e di Tenaris, insomma, e vedere come andrà la chiusura del 2008. È chiaro che tutte le società potranno avere delle difficoltà sul credito se le banche compiranno un giro di vite, ed è chiaro che tutti i titoli di borsa hanno subito, come spieghiamo ormai da intere giornate, il fatto che gli operatori, i fondi, per riequilibrare le perdite che registravano sul settore finanziario, sono andati a vendere i titoli su cui più guadagnavano, quindi non perché ci fossero dei problemi su quei titoli, ma perché li guadagnavano e andavano a portare a casa, a riscattare i guadagni. Di nuovo in diretta, allora, Livia Zancaner, molti complimenti ti stanno arrivando dagli ascoltatori, quasi tutti di carattere professionale. Allora, andiamo avanti con i titoli. Oltre a Saipem, Tenaris e alle banche, di cui tu bene hai spiegato anche il motivo, ci sono poi titoli che vanno bene nonostante tutto, penso a Luxottica, ma anche ST Microelectronics. Praticamente al palo oggi, se di palo si può parlare, è rimasta Geox, ossia ha perso l'1% nel finale, Snam Rete Gas, che però era stata una di quelle che meglio aveva tenuto in questi giorni, più 0,7%, Prysmian, Unipol e Lottomatica e Mondadori crescono poco, l'1%, Atlantia l'1,4% come Mediobanca e Italcementi. Allora, Luxottica e ST Microelectronics. Sì, allora Luxottica... Guarda, anche in pregiro se riesci a tenere assieme. Ok, allora Luxottica ha guadagnato il 4,6%. Allora, secondo gli analisti, il profit warning, cioè l'allarme utili, lanciato ieri dalla società, è già in realtà scontato nei prezzi di mercato della società, e l'abbassamento delle stime per il 2008 è in linea con le aspettative. Ieri infatti la società ha tagliato del 13% le previsioni di utile per azione di fine anno, abbassandole tra 0,96 e 0,98 euro. Per quanto riguarda STM, allora STM ha registrato una perdita nel terzo trimestre di 289 milioni di dollari. Però nonostante questo, Carlo Bozzotti, che è il presidente amministratore delegato della società, ha dichiarato che il mercato di microprocessori quest'anno crescerà intorno al 3% rispetto a stime iniziali del 4-5%, ma STM farà meglio del mercato. Infatti i ricavi netti per fine anno sono previsti per una crescita intorno all'8%, comunque compresa tra il 6,2% e l'8,6%, a fronte di stime iniziali intorno al 10%. Per quanto riguarda Impregilo, allora la società ha beneficiato innanzitutto del rally del settore costruzioni, che è salito di oltre il 9%, e anche di altri due fattori. Da una parte il mercato scommette sull'imminente chiusura della vicenda rifiuti in Campania, e dall'altra invece sembra che la società sia nell'interesse dei fondi sovrani libici, che starebbero esaminando il dossier, anche se in realtà ora la questione è ancora del tutto aperta. Questo quindi per quello che riguarda anche il titolo Impregilo. Poi abbiamo visto andare molto bene oggi la pagina di borsa, come è corretto che sia quando la borsa va così bene, più 9,87%. Da quant'è che non cresceva così tanto? Avete già un dato, se ce l'avete, Livia, non voglio metterti in difficoltà. No, adesso no, perché di solito la borsa ce li comunica. Sì, verso le 18.30, più avanti, sì. Anche per capire quanto si è creato, visto che diciamo sempre quanto si è bruciato. In borsa, dicevo, oltre ai titoli che tu hai citato, bene anche UbiBank e Unicredit, l'abbiamo detto, Finmeccanica più 7,3% a 9,47 euro, Enel più 7,2, Fiat più 6,5 come Alleanza Assicurazioni, Telecom più 6, L'Espresso più 5,80, Generali più 5,5, Seat, pagine gialle, più 5,1, A2A più 5% come Buzzi Unicem, il 4,7 lo guadagna Mediaset, e di Luxottica dicevamo, e anche di ST Microelectronics, e il 3,7 Bulgari. Ora c'è poi il caso tedesco, perché la Germania oggi, che ieri era andata benissimo, è cresciuta solo dello 0,6%. Il DAX 30 ha fatto un meno 0,3. Il motivo si chiama Volkswagen. Cosa è successo oggi sul titolo? Allora, il titolo oggi ha perso oltre il 45%. Allora, bisogna dire che nelle ultime due sedute la società ha guadagnato il 336,7%. Allora, oggi le azioni hanno risentito del fatto che stanno diminuendo le operazioni di copertura da parte dei fondi. Fondi che nelle scorse giornate avevano venduto allo scoperto, dopo che praticamente Porsche aveva segnalato di avere il 70%, oltre il 70% del capitale. Il flottante appare quindi risicato, per questo sono scattate le ricoperture sul titolo da parte di quei fondi che avevano venduto allo scoperto e che in realtà quindi non avevano effettivamente venduto titoli. Questo quindi, guarda adesso un dato che mi sta passando Barbara Bianchi qui in redazione: General Motors guadagna l'8% a New York, nonostante le difficoltà sulle vendite, meno 4% quasi, meno 3,8% le vendite di auto di General Motors. Perché guadagna così tanto? Secondo alcune indiscrezioni avrebbe chiesto aiuto alla Toyota per superare la crisi, e questa sarebbe veramente una svolta, perché già Toyota superò General Motors come numero uno nelle costruzioni di automobili al mondo. Adesso l'ex colosso, l'ex gigante General Motors, addirittura secondo le indiscrezioni starebbe chiedendo aiuto alla stessa Toyota. Ancora sui titoli in assoluto, i migliori e i peggiori, Livia, quali si discostano poco diciamo dai migliori e peggiori dell'S&P MIB, cioè da Intesa ed Eni? allora tra i migliori dici o tra i peggiori? Tra i migliori, scusami, chiaramente. Ok, allora tra i migliori titoli, allora ci sono ancora, come abbiamo detto, Fiat. Certo. Ok, che ha guadagnato intorno al 6,5%. Esatto, nonostante le difficoltà appunto del settore. Del settore, infatti, Chevrolet, la banca d'affari Chevrolet ha rivisto al ribasso il target, il prezzo obiettivo, mantenendo però outperform come raccomandazione. La società ritiene che, cioè la banca d'affari ritiene che il terzo trimestre dimostra che Fiat è in una situazione migliore rispetto ai competitor, ai concorrenti, con miglioramenti anche grazie alla controllata americana CNH. Inoltre Chevrolet ribadisce che Fiat è uno dei pochi delle poche società, delle poche case automobilistiche che ha confermato i target per il 2008, cosa che invece non hanno fatto le altre società del settore, o perlomeno meno la maggior parte. Allora, poi vedo alcuni sms che ci chiedono dell'Euribor. Sì, confermo che l'Euribor oggi è sceso a livello più basso da aprile, 14° calo consecutivo per il tasso che serve per calcolare i prestiti concessi dalle banche e imprese e anche a cittadini. È sceso al 4,83%, è salito ai massimi invece da quando c'è l'euro, il differenziale tra quanto rende un BTP italiano e un Bund tedesco. Livia, ti giro anche un messaggio: quando sono corretti e galanti, why not? E perché no? La cosa migliore di questa crisi continua ad essere la voce della Zancaner. Altri non te li posso girare. Grazie a Livia Zancaner, Radio Corriere Sole 24 Ore. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda e ultima parte di Focus Economia, in attesa alle 19:15 ora italiana che la Federal Reserve, la banca centrale americana, annunci di quanto taglierà il costo del denaro in America. Per quello che riguarda invece il nostro costo del denaro, ossia quello della banca centrale europea, bisognerà attendere il prossimo 6 novembre, quindi dopo anche le elezioni americane. Le attese sono di un taglio di almeno 0,5 punto percentuale in America. Da noi è difficile dirlo, anche perché insomma deve costare molto a Jean-Claude Trichet rivedere tutto quello che ha detto e scritto negli ultimi mesi, cioè che il vero pericolo per l'Europa era l'inflazione. Mi sembra che ce ne siano degli altri prioritari. Comunque è chiaro che anche dalla riduzione dei tassi in Europa arriveranno aiuto alle famiglie, ne parlavamo prima nell'approfondimento che abbiamo dedicato al tema dei consumi, dopo la richiesta arrivata oltre che dal PD anche dalla Confcommercio di detassare le tredicesime, e abbiamo fatto anche un calcolo di quanto varrebbe, e la misura non è poca cosa: dai 3,5 miliardi insomma ai 6-8 miliardi indicati da Confcommercio siamo quasi di fronte a una piccola manovra bis. È chiaro, dicevo, che un aiuto forte arriverebbe dal taglio dei tassi di interesse anche a livello europeo, taglio chiesto lo scorso fine settimana dalla Presidente di Confindustria Marcegaglia, ha detto un punto e poi un altro punto, quindi complessivamente due punti. Ieri, nella direzione comunque auspicata dalla Confindustria, ma anche da vari osservatori, si è mossa intanto la Regione Lombardia, che si farà garante delle piccole e medie imprese che vorranno accedere a prestiti bancari per un ammontare complessivo fino a 3 miliardi di euro, al quale si aggiungerà 1 miliardo di finanziamenti diretti. Lo ha annunciato ieri lo stesso presidente della Regione Lombardia, Formigoni. Nel frattempo, uno studio di Hyperion Corporate Finance ha evidenziato come nel 2007 oltre un terzo delle piccole e medie imprese italiane avesse un debito superiore al valore del patrimonio netto, e questo poi pone ancora più elementi critici una volta che le banche dovessero, se già non lo stanno facendo, stringere sul credito. La nostra Paola Nania ha intervistato su questo Ludovico Mantovani, che è partner di Hyperion Corporate Finance. Il primo elemento che emerge è sicuramente il fatto che nell'ultimo periodo le imprese si sono indebitate maggiormente rispetto al passato, quindi sicuramente la struttura finanziaria delle imprese negli ultimi 12 mesi si è ulteriormente indebolita rispetto al passato. Quali sono le ragioni secondo voi? Secondo noi le ragioni sono fondamentalmente due. Una, che le aziende hanno ridotto le proprie performance economiche e quindi hanno dovuto chiaramente ricorrere maggiormente all'indebitamento. Quindi si sono dilatati i termini di pagamento con i clienti, insomma ci sono state una serie di fattori che riguardano l'operatività delle aziende che chiaramente hanno peggiorato la performance. E il secondo motivo è che comunque le aziende stanno continuando ad investire nel, questo se vogliamo il primo è un dato un po' negativo, mentre invece questo potrebbe essere letto come un'informazione invece più positiva, il fatto che comunque le aziende stanno continuando ad investire e che naturalmente sfruttano la leva per crescere, per fare nuovi investimenti, comprare magari nuove altre società, insomma per fare le loro attività, quindi un dato negativo e un dato positivo. Quanto pesa in questo scenario la crisi finanziaria che si sta riversando sull'economia reale? Non glielo so ancora dire, perché chiaramente gli effetti sull'economia reale stanno iniziando adesso a manifestarsi. Quello che noi vediamo in questo ultimissimo periodo è una notevole criticità nei rapporti tra banche e imprese proprio negli ultimi 15 giorni, nell'ultimo mese. Quindi un ulteriore, diciamo, inasprimento dei già tesi rapporti tra le banche e le aziende. Io penso che a tendere ci sarà un'ulteriore stretta creditizia e problemi importanti, dovuti anche al fatto che le aziende si attendono un peggioramento dell'andamento del proprio conto economico nei prossimi 12 mesi, quindi non penso che la situazione sia destinata a migliorare nel breve periodo. Insomma, il rischio di credit crunch, come si chiama, è più che concreto? Direi di sì, purtroppo temo che sarà un fatto abbastanza comune trovare aziende con le banche alle costole nei prossimi mesi, purtroppo. Ecco, per quanto riguarda l'indebitamento delle imprese, è possibile fare una classifica tra le regioni italiane? C'era una nostra classifica, io devo essere sincero, sono un po' restio alle classifiche, perché poi le classifiche vanno interpretate. Sicuramente notiamo nella classifica che ci sono regioni che hanno una propensione maggiore all'indebitamento o regioni che ne hanno di meno, però i dati non sono così distanti, quindi io credo che il dato medio è abbastanza significativo ed è un dato che rappresenta una realtà abbastanza diffusa sul territorio nazionale. Così al microfono della nostra Paola Nania, il partner di Hyperion Corporate Finance, Ludovico Mantovani. Altre note per chi si fosse appena messo in collegamento: vabbè, le borse da record, lo abbiamo ampiamente ricordato, rialzi degli indici oggettivamente mai visti, S&P MIB più 9,87%, il MIBTEL più 8,50%, Parigi più 9,23%, l'America in questo momento è più cauta, più 0,7%, molto bene questa mattina anche le borse asiatiche, Londra ha guadagnato l'8% nel finale, unica borsa in controtendenza, Francoforte, dove ha pesato il calo del 40% del titolo Volkswagen dopo i due cali da record, crescite da record degli ultimi giorni, e la Consob tedesca sta aprendo un'inchiesta su questo. Ancora oggi, lo ricordiamo, il commissario agli affari economici e monetari dell'Europa, Almunia, ha detto la recessione, il rallentamento dell'economia sarà serio in Europa, mentre in Italia il presidente della Consob, Cardia, parlando alla Commissione Finanze della Camera, ha detto la situazione attuale è più grave di quella del 29. Adesso le informazioni per chi è in viaggio e poi parliamo di telecomunicazioni, perché è arrivata una multa da un lato del nostro antitrust, ma è in dirittura d'arrivo anche il piano europeo, la riforma europea del settore delle telecomunicazioni. Ultima parte di Focus Economia, non possiamo trattare ancora il tema dei tassi delle banche. Molti bancari, devo dire, in questi giorni ci stanno scrivendo dicendo: guardate che da noi stiamo già praticando un aumento dei tassi nei confronti della clientela, e quindi clienti, normali cittadini, ma anche e soprattutto imprenditori. Lì sarà molto importante, per quello che riguarda le imprese, quindi ricollegandomi all'ultimo tema toccato, sarà molto importante il monitoraggio che i tavoli territoriali di Confindustria e ABI faranno proprio sul comportamento sul territorio, caso per caso, in loco, delle banche, perché se l'Euribor scende, da qualche parte questo si deve trasferire anche nei prestiti concessi, nel costo dei prestiti concessi dalle banche. Occupiamoci adesso di telecomunicazioni, non solo perché sono un elemento di estrema competitività per le imprese, per l'Europa, elemento a costo molto basso, dove l'inflazione in questi anni è stata in realtà deflazione, cioè i servizi costano sempre meno. Oggi l'antitrust italiano ha comminato 5 multe per un totale di 1.160.000 euro a Neomobile, Telecom Italia, Vodafone, Wind e H3G per pratiche commerciali scorrette riguardanti un abbonamento settimanale per ricevere contenuti multimediali, e questo è un fronte. Però sempre per quello che riguarda le telecomunicazioni, entro diciamo marzo, aprile, l'Unione Europea deve approvare la riforma di tutto il settore delle telecomunicazioni, e già dalla prossima riunione del Consiglio dei Ministri e dei 27, quindi Europa allargata, ci potrebbero essere degli elementi determinanti. Se ne è parlato 3 giorni fa a Venezia nel corso di uno dei più importanti convegni degli operatori telefonici a livello mondiale. Sentiamo una sintesi di quanto emerso, quanto a strategia, da parte di Gabriele Galateri di Genola, che è presidente di Telecom Italia, intervistato dal nostro Enrico Pagliarini. Si è ribadito che l'industria dell'ICT, l'industria dell'informatica e delle telecomunicazioni può essere uno strumento molto importante per il superamento di questa crisi. E quindi si è sottolineato da più parti l'importanza degli investimenti nelle reti di nuova generazione fisse e mobili, che però devono essere sostenute da politiche di supporto, da politiche che consentano di fare questi investimenti in un quadro quindi di regole e di ritorni economici adeguati. Così il presidente di Telecom Italia. Nel 2007 il fatturato delle telecomunicazioni è cresciuto a livello europeo dell'1,6%, quasi dimezzato rispetto al 2006, e anche gli investimenti sono crollati dal 4% del 2006 all'1,4% del 2007, una tendenza che potrebbe anche aggravarsi. E potrebbe aggravarsi per via della congiuntura economica complessiva, ma anche per un ritardo complessivamente che ha l'Europa nello sviluppo delle reti di nuova generazione. Come evitare questo rischio? Sempre il nostro Enrico Pagliarini lo ha chiesto al commissario europeo delle telecomunicazioni Viviane Reding, presente all'incontro di Venezia. We have to stop those risks. Dobbiamo fermare questi rischi, dobbiamo eliminarli, perché abbiamo bisogno che l'economia cresca. Vede, non è come per gli altri settori che hanno un'importanza verticale. Telecoms and communications have a horizontal importance. Le telecomunicazioni hanno un'importanza orizzontale. Se non esistessero, sarebbe l'intero settore industriale a soffrirne. Quindi abbiamo bisogno del settore delle telecomunicazioni per costruire un'economia europea. In order to build up our European economy, 50% of the productivity growth. Il 50% della crescita della produttività è dovuto alle telecomunicazioni. Noi abbiamo bisogno che la produttività cresca, e questo è il motivo per cui è necessario avere una forte industria delle comunicazioni e averla a livello europeo, per darle la forza necessaria per sostenere tutta l'economia. To help the normal economy. Senta, concretamente che cosa può fare la Commissione europea? The Commission is doing a lot. La Commissione sta facendo molto. Prima di tutto, nel settore bancario, la Commissione, assieme agli Stati membri, punta a sostenere la capacità di prestito delle banche, e questo è essenziale anche per le aziende di telecomunicazione, che devono continuare ad investire. A proposito di investimenti, abbiamo stabilito delle regole per le società telefoniche affinché abbiano un ritorno dell'investimento e un premio di rischio, e possano così investire nelle cosiddette reti di prossima generazione. For example. Abbiamo ad esempio riformato il settore delle telecomunicazioni, così che tutti gli ostacoli dovuti ad una frammentazione del mercato fra 27 paesi si trasformino in un unico e forte mercato europeo, con regole comuni e opportunità comuni da sviluppare. With common rules and common opportunities to develop. E quindi passa attraverso lo sviluppo delle reti di prossima generazione, quelle di internet a larghissima banda, dove i contenuti viaggeranno ancora più velocemente e di volume molto maggiore. E dicevo, passa attraverso questo lo sviluppo delle telecomunicazioni in Europa. Gli investimenti nelle reti di prossima generazione però varranno una cifra che si avvicina ai 300 miliardi di euro, con un equilibrio abbastanza complicato tra investimenti del settore pubblico e del settore privato, tant'è che l'amministratore delegato di Telecom Italia, Franco Bernabè, ha chiesto in sostanza che venga anche riconsiderato il ruolo dei grandi portali di internet, soprattutto americani, anche perché quelli sono i grandi portali di internet. Ascoltiamolo sempre al microfono del nostro Enrico Pagliarini. Credo che la prima cosa debba essere la consapevolezza che non possiamo pensare che gli operatori di telecomunicazioni diventino dei puri trasportatori di bit. Bisogna consentire agli operatori di avere un ritorno adeguato dei loro investimenti e soprattutto bisogna consentire agli operatori di crescere nella qualità dei servizi e nella diversificazione dei servizi che possono erogare. Quello che è avvenuto nel corso degli ultimi anni è che sono cresciuti operatori internet over the top con dei risultati economici straordinari che hanno avuto il beneficio di poter accedere a delle reti a larga banda con degli applicativi che consumano sempre più banda, e quindi tutto l'onere degli investimenti è ricaduto sugli operatori, soprattutto sugli incumbents, che sono quelli che gestiscono delle reti. Ecco, quello che è emerso con grande chiarezza è che questo ha determinato per il momento un grosso spostamento di ricchezze di valore dall'Europa agli Stati Uniti. 17 miliardi di euro sono stati trasferiti dall'Europa agli Stati Uniti grazie agli investimenti in banda larga fatta dagli operatori europei. Ecco, non vorremmo da parte degli operatori, credo sia emersa abbastanza unanimemente, che la spinta ad investire in un contesto regolatorio molto diverso da quelli degli Stati Uniti, che questa spinta agli investimenti senza l'appropriato contesto regolatorio finisca poi per favorire gli Stati Uniti e gli operatori americani a scapito degli operatori europei, che dovranno sostenere tutti i costi senza averne i vantaggi. Insomma, Franco Bernabè dice non è possibile che le reti europee di telecomunicazioni si accollino tutti i costi di operatori americani che fanno viaggiare contenuti sempre più pesanti. Noi dobbiamo spendere soldi per la rete e poi i guadagni vanno ai grandi internet provider americani. Deve essere riequilibrato il meccanismo. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Anche domani trasmetteremo dagli studi di Radio 24 qui al World Business Forum.